di alcolici, siamo prede facili, ballerò per te. Guardaci, due tipi fantastici, due corpi assai plastici, stasera io e te. Con me puoi fare proprio quello che, quello che ti va, quello che ti va, quello che ti va, va, va. Ma non cambiare il ritmo di questa danza, continua a muovere quel corpo di ragazza che fa shubidu shubida shubida papari, shubidu shubida shubida papari, shubidu shubida shubida papari vida. Capelli elettrici, coi tacchi pronostichi, scintille fra noi. Oh, oh, oh, oh, regalami sorrisi e ammaliami, mascara il mojito e poi sudore cliché. Considerando tutto quello che, quello che mi va, quello che mi va, quello che mi va, va, va. Non c'è un vegliente intelligente, c'è solo un travolgente corpo di ragazza che fa shubidu shubida shubida papari, shubidu shubida shubida papari, shubidu shubida shubida papari vida, shubidu shubida shubida papari vida. Particolari che reputi degni soltanto di pochi e poi dimmi quello che vuoi, dimmi quello che vuoi, dimmi quello che vuoi, dimmi quello che vuoi.